di Simone Spezia. Il ministro Madia sulla riforma della pubblica amministrazione. Confronto coi sindacati? Non è detto. In busta paga non ci sarà un bonus. Lavoriamo sulle detrazioni, dice Poletti. Stipendi dei manager. Moretti torna sulla polemica. Se c'è un'alternativa migliore, ben venga. Fare l'amministratore delegato è una fatica, non un gioco. In Ucraina salta il ministro della difesa. La NATO preoccupata per le truppe russe ammassate al confine. Attesa per la conferenza stampa di Obama questo pomeriggio. Provoca un incidente nel quale muore una donna e poi fugge. Aveva precedenti per droga. Oggi i deputati del PD presentano una proposta di legge per l'istituzione dell'omicidio stradale. Luxottica e Google, accordo per la produzione di Google Glass. Sarà formata una squadra di designer e tecnici delle due aziende. Una country house sull'ermo Colle di Leopardi. Tra poco intervista all'erede. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti che se volete come sempre potete commentare al 349-238-6666 oppure potete scriverci se volete a effettogiorno@radio24.it. Iniziamo oggi dalle dichiarazioni di due ministri, il ministro Poletti da una parte e dall'altra il ministro Madia, che faranno discutere soprattutto quelle della Madia. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Eh sì Simone, è così, buongiorno. Governo al lavoro sui principali dossier economici, come ha ricordato questa mattina lo stesso Presidente del Consiglio Renzi. Tra le priorità di Palazzo Chigi resta il taglio del cuneo fiscale, lato IRPEF. Continua per questo il confronto all'interno dell'esecutivo per limare il lavoro sulla spending review fatto da Cottarelli per individuare le risorse che permettano di coprire almeno in parte il taglio da 10 miliardi. Su questo tema interviene allora il Ministro del Lavoro. La scelta per l'aumento di 80 euro in busta paga resta quella annunciata da Renzi, spiega Poletti, ovvero un intervento sull'IRPEF e sulle detrazioni da lavoro dipendente. No dunque ad ipotesi di bonus in busta paga. I pensionati restano esclusi dai benefici, dice ancora Poletti, che affronta quindi il capitolo del decreto lavoro, creerà occupazione e le imprese, dice, non avranno più la scusa di trovarsi di fronte a norme pesanti e lunghe dal punto di vista burocratico. Il 2014, aggiunge poi il ministro, sarà ancora di grande sofferenza. Sul fronte sempre della spending review, lato statale, interviene intanto il ministro Madia. Non è detto che ci saranno dei tavoli con i sindacati perché abbiamo tempi molto stretti. Quanto agli esuberi, Madia aggiunge, il riferimento ad 85.000 è sbagliato. L'idea sarà quella invece di provare ad avere uscite anche con prepensionamenti, ma ciò per aiutare i giovani ad entrare nella pubblica amministrazione. Infine il tetto agli stipendi dei manager pubblici, la circolare è già stata firmata, conclude il ministro. E da Roma è tutto, linea allo studio. Rosana Dettori, segretario generale della funzione pubblica CGIL, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Come commenta queste dichiarazioni del ministro? Guardi, io sono sufficientemente allibita, cioè nel senso che io speravo davvero che ci fosse un cambio diverso rispetto al lavoro pubblico. Noi eravamo disponibili a cambiare verso, ma mi pare che stiamo in continua, in perfetta continuità, nessuna novità nelle dichiarazioni della ministra, perché la mobilità era già prevista, i prepensionamenti erano già previsti, gli esuberi c'erano già, poi può essere sbagliato il numero, ma tutti continuano a parlare di esuberi. E la riforma non si fa contro i lavoratori pubblici, io non so, credo che sia opportuno, ci era sembrato all'inizio che la ministra fosse disponibile, invece provare a ragionare insieme su come si riforma la pubblica amministrazione. Ribadisco, noi siamo non disponibili di più a ragionare su come riorganizzare i servizi pubblici per dare risposte ai cittadini, perché solo facendo questo poi siamo in grado di dire se funzionano quelle dotazioni organiche oppure no. Sul fare entrare giovani, io davvero la dico così, si sponda una porta aperta, però non è che si possono contrapporre i lavoratori più anziani a quelli giovani, perché davvero si corre il rischio di innescare una dinamica conflittuale fra generazioni. Prepensionamenti, come? Chi li paga, con quali costi, con quali penalizzazioni? Io penso che dovremmo ragionare anche di questo, perché sennò diventa un ulteriore peso. Ha detto allibita, allibita anche per quello che dice sul tema del confronto, Madia, che dice insomma non è detto che avremo il tempo di confrontarci. Sono allibita a partire da quello, perché in un incontro che abbiamo già avuto singolarmente come organizzazioni sindacali, la ministra ci ha raccontato cosa aveva in mente di fare, noi abbiamo anche provato a dire che cosa pensavamo bisognava fare nella pubblica amministrazione, mi era sembrato di aver capito che dopo che aveva finito di incontrare le singole organizzazioni per conoscerci, perché non ci conoscevamo, avrebbe aperto un tavolo con tutte le organizzazioni sindacali. Quindi sì, questo cambio di rotta, di posizione mi lascia allibita, perché non potremmo dare, non siamo un ostacolo alla riforma della pubblica amministrazione, davvero potremmo essere d'aiuto, anche perché abbiamo unitariamente predisposto già un documento che non dice che abbiamo sempre ragione, che dice che siamo disponibili a riorganizzare, a chiudere e a rilanciare i servizi pubblici complessivamente. La ringrazio, grazie a Rossana Dettori, segretario generale della Funzione Pubblica CGIL, per essere stata con noi. Nel frattempo la stessa ministra Madia dice che ha già firmato una circolare sul tetto per gli stipendi nella pubblica amministrazione, tarato sul primo presidente della Corte di Cassazione, firmata dunque la circolare. Qua però la discussione continua a vertere in realtà non su gli stipendi dei dirigenti della pubblica amministrazione, ma sugli stipendi dei manager delle aziende pubbliche, tema sul quale è tornato oggi l'amministratore delegato di Ferrovie nel giorno della presentazione del piano industriale. C'era là per noi Stefano Totoro. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno a voi e ai nostri ascoltatori. Se ci sono alternative migliori per gestire questo gruppo, ben vengano. Così dunque Mauro Moretti ha replicato alle polemiche degli ultimi giorni sulla retribuzione dei manager pubblici, polemiche che lo hanno visto dunque protagonista. Dopo la sua dichiarazione, se mi tagliano lo stipendio da 850.000 euro vado via, dichiarazione che lo ha fatto diventare in qualche modo bersaglio della politica e non solo. Moretti ha appunto scelto la presentazione del piano industriale FS 2014-2017 per replicare, ha ricordato i risultati ottenuti con la sua gestione del gruppo, la condizione critica in cui versava prima del suo arrivo nel 2006, ha detto Moretti, nessuno voleva fare l'amministratore delegato di FS, questa è una storia di fatica, non di chiacchiere, ha aggiunto il numero uno del gruppo, chiacchiere per rubare mezzo minuto di scena, e poi Moretti ha di essere valutato dunque sui fatti. Risposte piccate alla politica e non solo, ricordiamo che anche l'imprenditore Diego Della Valle aveva attaccato Moretti, risposte date fra una slide e l'altra in cui ha descritto gli obiettivi dei prossimi tre anni, obiettivi che vi riassumo brevemente, investimenti complessivi nel 2014-2017 per 24 miliardi di euro, 3 miliardi di euro per il trasporto pubblico locale, un forte impulso alle merci e interventi anche sull'alta velocità, con particolare riferimento al Sud Italia. Gli obiettivi del gruppo: ricavi di un più 3,5% all'anno, utile più 4,6% all'anno. Per il momento da qui è tutto, a te. Grazie al nostro Stefano Totoro. Noi passiamo all'estero e passiamo in particolare alla situazione in Ucraina. Innanzitutto con quello che sta circolando in questi minuti e riguarda una telefonata con un deputato del partito filorusso delle regioni Nestor Shufrish di Yulia Tymoshenko. Una telefonata che sta circolando e che quindi sarebbe stata intercettata in qualche modo, secondo lei sarebbe stata manipolata, nella quale si dice pronta a prendere in mano un mitra e a sparare in fronte a questo mascalzone. Il riferimento è Vladimir Putin. La situazione è quella di una NATO molto preoccupata dal fatto che le truppe russe si stanno ammassando al confine. Di tutto questo si sta discutendo e si continua a discutere all'AIA, dove si svolge il vertice sul nucleare. È tra l'altro stato firmato un trattato da tutti tranne che da Russia e Cina. Mario Platero si trova là, poi ti ritroveremo in America 24, ci darai altri dettagli, però un breve aggiornamento. Mario, buongiorno. Eccoci, sì, buongiorno Simone. Direi che la notizia che tu hai dato non si muove nella direzione in cui vogliono muoversi anche gli Stati Uniti, perché dietro la retorica di un documento molto duro, quello del G7 di ieri, un G7 straordinario, senza precedenti, quindi un G7 storico, perché oltretutto si è riunito a Bruxelles e non in una delle capitali dei membri del G7, come è sempre successo. Ecco, al di là di questa retorica molto forte, la Russia sospesa, il prossimo G7 si terrà a Bruxelles e non a Sochi, minaccia di nuove sanzioni, ecco, gli Stati Uniti continuano a volere la soluzione, come dire, diplomatica, è l'unico modo per uscire da questa crisi, è l'unico modo per evitare che si entri in una spirale di sanzioni, controsanzioni, provocazioni, escalation, e che porterà poi a danni gravi per l'economia, non soltanto russa, diciamolo, ma anche europea. Ecco, questo si vuole evitare, si sta lavorando per questo. Più tardi avremo una conferenza stampa del Presidente degli Stati Uniti intorno alle 4, quando ormai il vertice nucleare, che come tu stesso hai detto è passato ormai in secondo piano, si sarà concluso e sapremo da Obama quali saranno gli sviluppi più recenti. Grazie Mario, dunque in attesa di Obama, e poi ti ritroveremo con altri dettagli, lo ricordo ancora, in America 24 alle 13:45. Noi restiamo all'estero, oggi ci sono state proteste dei familiari delle vittime dell'aereo caduto, ormai appunto vittime davvero, sentiamo. Seppur minima per chi aveva parenti e amici a bordo dell'aereo malese, la speranza era che fossero da qualche parte ancora vivi. Il calvario dell'attesa si è concluso con una dichiarazione secca, arrivata a 17 giorni di distanza da quell'8 marzo, data in cui il Boeing scomparì. L'aereo è terminato nell'Oceano Indiano Meridionale e non ci sono sopravvissuti. I familiari urlano, piangono di nuovo, è un supplizio che avevano già dovuto vivere una volta, due e troppo, con l'aggravante di aver ricevuto la notizia per SMS. Così i familiari dei 239 dispersi organizzano una marcia di protesta verso l'ambasciata della Malesia a Pechino. Le autorità malesi avrebbero, a loro dire, ritardato la diffusione dell'informazione sulla sorte dell'aereo. Ci sono stati anche scontri con la polizia. Nelle ultime ore erano emersi nuovi elementi sulle manovre del jet scomparso la notte dell'8 marzo. Il pilota del Boeing 777 malaysiano, dopo aver cambiato improvvisamente rotta verso ovest, ha compiuto una rapida discesa a 12.000 piedi, circa 4.000 metri. Il movimento, secondo fonti citate dalla CNN, è stato registrato da un radar militare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Qualche notizia di cronaca. Innanzitutto il comandante della polizia stradale di Como e il suo vice, sei poliziotti sono stati arrestati questa mattina per falso, abuso d'ufficio e peculato nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Como e tra l'altro dalla stessa Polstrada comasca, su un giro di multe che sarebbero sparite o state cancellate e per altri episodi nei quali avrebbero ottenuto vantaggi personali. 4, ha precisato la polizia in una nota, sono stati portati in carcere, 4 ai domiciliari. E poi c'è un'inchiesta a Torino sulle case popolari. L'indagine era partita un anno fa e con il tempo ha coinvolto sempre più persone. In carcere sono finiti il direttore generale dell'Agenzia Territoriale della Casa, ATC, di Torino, Marco Buronzo, e quello della Manet, società in-house dell'ATC, Carlo Liberati. Altri 8 fra dirigenti e funzionari di ATC, ATC Project e Manet sono ai domiciliari. I magistrati hanno scoperto che l'ATC di Torino affidava lavori di ristrutturazione importanti delle case popolari a società private, senza rispettare le procedure di assegnazione pubblica. Per realizzare queste opere, l'ATC avrebbe potuto avvalersi dell'attività della Manet, società in-house partecipata al 100%, ma non ha rispettato i vincoli di legge. In altre parole, Manet avrebbe dovuto realizzare almeno il 70% dei lavori con le proprie maestranze e il 30% affidarlo in appalto a privati. Ma, ed è qui l'ipotesi di reato, nell'assegnare i lavori a terzi non venivano rispettate le procedure ad evidenza pubblica. In più, Manet chiedeva ai subappaltatori di realizzare con i propri mezzi anche quel 70% di lavori che per legge erano di sua competenza. Il reato contestato è dunque quello di falsità ideologica in atti pubblici. Venivano cioè creati falsi SAL, ossia documenti che attestano l'avanzamento dei lavori, dove veniva dichiarata una falsa percentuale di manodopera impiegata. Formalmente veniva rispettato quel 70% e 30% obbligatorio per legge, in realtà facevano quasi tutto le società terze con i propri mezzi. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso parliamo dell'accordo raggiunto da Google e Luxottica. Google sceglie lo stile italiano per i suoi nuovi Google Glass. Per questo ha deciso di fare un accordo con Luxottica, leader mondiale nel settore del design, della produzione e della distribuzione di occhiali sportivi e di lusso, fondata nel lontano 1961 da Leonardo Del Vecchio. L'azienda italiana, che coinvolgerà anche i due marchi più famosi del gruppo, Ray-Ban e Oakley, metterà in campo tutta la sua esperienza per realizzare la nuova generazione di occhiali insieme a Google, con cui formerà una squadra di esperti. Obiettivo: cercare di unire moda e lifestyle all'innovazione tecnologica. Le due aziende non partono da zero. La loro collaborazione è iniziata almeno un anno fa, ma è stata ufficializzata solo ora. Per Astro Teller, responsabile del progetto dei Google Glass per il gigante di Mountain View, è più un problema di moda che di tecnologia, perché bisogna convincere le persone ad indossare un computer sul loro viso. Ma è convinto che unendo le competenze sarà possibile dare vita ad una nuova generazione di dispositivi rivoluzionari. Pochi i dettagli sull'intesa, specie quelli economici, 10 ed è ancora difficile prevedere quando gli occhiali del futuro saranno disponibili sul mercato. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia appena battuta dalle agenzie, c'è un allarme bomba ad Avigliana, in Valle di Susa, davanti alla sede del Partito Democratico. A farlo scattare un pacco sospetto dal quale fuoriescono dei cavi elettrici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno isolato l'intera area in attesa dell'intervento degli artificieri. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Madia sulla riforma della pubblica amministrazione, confronto coi sindacati, non è detto, firmata la circolare sul tetto agli stipendi nella pubblica amministrazione, ora tarato sul primo presidente di Cassazione. Intanto Moretti delle Ferrovie dello Stato torna sul tema degli stipendi dei manager. Se c'è un'alternativa migliore, ben venga. Fare l'amministratore delegato è una fatica, non è un gioco, vediamo se Renzi saprà convincermi. In Ucraina salta il ministro della difesa, la NATO preoccupata per le truppe ammassate al confine, circola una telefonata intercettata di Yulia Tymoshenko nella quale dice: sparerei a Vladimir Putin. Provoca un incidente nel quale muore una donna e poi fugge. Aveva precedenti per droga. Oggi i deputati del Partito Democratico presentano una proposta di legge per l'istituzione dell'omicidio stradale. Ne parleremo tra poco. Saluto intanto Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Buongiorno. Buongiorno. La chiamiamo per parlare di Ucraina e della sicurezza del nostro approvvigionamento energetico, perché molto se ne è parlato nelle scorse ore. C'è stata una rassicurazione da parte degli Stati Uniti che hanno detto: guardate che se la Russia non vi fornisce gas ci pensiamo noi. In realtà, Tabarelli, le cose non sono così semplici. No, perché noi tutte le mattine quando apriamo il fornello del gas o ci riscaldiamo con la caldaia abbiamo che un terzo di quel gas lì proviene dalla Russia. Se dovesse sparire ci vogliono almeno 3-4 anni prima che arrivino delle molecole dallo shale gas americano, perciò le cose sono molto diverse. Sono molto più complicate. Nei giorni scorsi in un'audizione l'amministratore delegato dell'ENI, Scaroni, ha detto: noi siamo in grado di reggere su un'ipotesi di N-1, ossia abbiamo tre fornitori principali, se ne viene a mancare uno siamo comunque in grado di reggere. L'impatto sulle tariffe è tutto un altro ragionamento, Tabarelli. Sì, fra l'altro anche dobbiamo distinguere però fra una crisi come è stata del 2006-2009 temporanea, perché la Russia voleva transitare attraverso l'Ucraina, poi ci sono state delle interruzioni, sono durate qualche giorno, e lì queste crisi le possiamo reggere bene anche perché siamo in recessione, fine inverno, abbondanza di offerta perché ne abbiamo consumato poco, un clima mite, abbiamo altri fornitori. Tutt'altra cosa è un'interruzione duratura del nostro principale fornitore assieme all'Algeria. Trovare 22, 25 miliardi, 30 miliardi di metri cubi di gas da sostituire non esistono proprio, perché ad esempio l'Algeria tecnicamente il tubo lo potrebbe portare molto di più, anche 35-40 miliardi contro quello che hanno portato l'anno scorso, era molto poco, meno di 16, intorno a 16, però non ce l'hanno il gas gli algerini, non hanno speso soldi per fare investimenti in nuovi giacimenti, nuove produzioni. Il gas liquefatto che si dice che c'è in giro va tutto in Giappone, dove hanno chiuso le centrali elettriche nucleari e stanno pagando molto di più. Poi a tutto si rimedia, ecco, però sarebbe uno shock energetico devastante per l'Europa e in particolare per l'Italia. Tabarelli, dal punto di vista strategico c'è anche l'altra faccia della medaglia, ossia la forte dipendenza della Russia dall'esportazione di gas. Ma infatti, guardi, noi siamo il paese, tanto per dare l'ordine di grandezza, siamo il paese più dipendente da importazioni di energia dall'estero che incidono sul nostro PIL per circa il 3-3,5%. La Russia, le sue esportazioni di energia incidono sul loro PIL per il 18%, perciò prima di tutto non se lo possono permettere loro. Occorre ricordare che sono sempre stati degli ottimi fornitori dai tempi del comunismo, fra l'altro dal 74 che noi importiamo gas da loro, con delle strutture decise ancora da Togliatti alla fine degli anni 50, poi si sono realizzate con calma. Cioè siamo passati attraverso periodi ben peggiori di politica, di raffreddezza nei rapporti della Russia. Ecco, l'interesse prima di tutto è da parte loro, pertanto va bene sanzioni, ma stiamo attenti a non complicarci troppo la vita. Grazie a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, per averci aiutato a capire che cosa succede in tema di forniture di gas in merito alla Russia. Noi adesso ci spostiamo ancora su quello che è il seguito, se vogliamo, delle elezioni francesi, delle elezioni amministrative francesi, dove c'è stato un buon risultato, come sapete, del Front National, un'avanzata di questo tipo di partiti euroscettici, in parte populisti, soprattutto nelle zone e nei paesi dove si soffre di più, ovviamente, la crisi economica, in particolare la disoccupazione. Il tema di un approfondimento che trovate oggi sul Sole 24 Ore con una bella mappa molto interessante. Abbiamo chiesto al collega che l'ha scritto di riassumercelo. In Ibomon, l'unico comune in cui il Fronte Nazionale di Marine Le Pen ha vinto al primo turno delle amministrative francesi, si trova nella regione Nord Passo di Calais, al confine con il Belgio. Vecchio bacino minerario, poi convertito all'industria e ai servizi, è il punto di accesso dell'Eurotunnel che porta a Londra. Nel 2012 era la regione francese con il più alto tasso di disoccupazione dopo lingua d'oca. Dall'immenso calderone delle statistiche regionali di Eurostat viene fuori che anche nelle classifiche del PIL pro capite la regione arranca non lontano dalle ultime posizioni. Lasciamo a sociologi e politologi il compito di studiare il nesso tra economia e scelte elettorali, ma questo è un esempio di come il vento populista antieuropeo, aiutato anche da una crisi che dura ormai da più di 6 anni, stia soffiando sul malessere economico di molte regioni in giro per l'Europa. Tuttavia, dalla mappa che abbiamo ricostruito sul Sole 24 Ore, non sempre le ragioni economiche dell'antieuropeismo appaiono giustificate. È il caso dell'Olanda, dove la disoccupazione è sì cresciuta tra il 2007 e il 2012, ma la percentuale degli occupati resta molto vicina alla piena occupazione. E l'Italia? La foto di gruppo scattata da Eurostat descrive un paese che ha sentito la prima ondata della crisi soprattutto al nord. Al di là dei valori assoluti, colpisce il confronto con le altre regioni europee. Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio sono arretrate in alcuni casi anche di 15 posizioni rispetto alle altre regioni. In modesto recupero invece le regioni del sud, forse grazie anche ai fondi strutturali europei spesi, sia pure con difficoltà, in base a regole e criteri concordati con le istituzioni e i partner dell'Unione. Giuseppe Chiellino per Radio 24, il Sole 24 Ore. Ma cosa dicono i sondaggi e come vanno le cose da questo punto di vista? Abbiamo chiesto alla nostra Alessandra Schepisi di farci un quadro. Da una parte gli euroscettici, dall'altra gli europeisti convinti, seppur con molti distinguo. Il ciclone Le Pen scuote l'Italia e radicalizza il dibattito in vista delle elezioni europee di maggio. Una cosa è certa, la campagna elettorale si giocherà su questa contrapposizione, ma anche gli euroscettici al loro interno sono divisi. Se infatti il Movimento 5 Stelle respinge ogni accordo con Marine Le Pen, la Lega rinnova l'asse con il Fronte Nazionale, il segretario Matteo Salvini. I temi sono comuni, un'Europa senza euro che recupera quindi speranza, futuro, dignità, lavoro, un'Europa che difende i suoi confini e quindi dice no a un'immigrazione di massa, un'Europa che difende i suoi prodotti e quindi un'Europa fondata sul lavoro. I tratti sono assolutamente comuni, stiamo costruendo una grande alleanza per un'altra Europa che non ha l'euro fra le scatole perché l'euro sta ammazzando quello che rimane dell'Europa. Il terremoto francese con l'ondata anti-euro scuote invece le forze tradizionali più ancorate al vecchio continente. L'Europa deve prendere atto di un diffuso senso di contestazione e di antipolitica, ammette Matteo Renzi. E nel PD si studiano già nuove strategie di comunicazione per le europee. E intanto Sergio Cofferati annuncia che sarà tra i candidati del partito a Bruxelles. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di Europa, sono aumentate le allerte per la sicurezza dal 2013 al 2014, lo dice il rapporto RAPEX presentato oggi. Lo spiega Paola Testori Coggi della Direzione Generale per la Salute dei Consumatori della Commissione Europea al microfono di Valentina Furlanetto. C'è un aumento delle allerte, un aumento non importante, ma comunque circa il 4% in più delle allerte dell'anno scorso. Allerta vuol dire che si è identificato un prodotto pericoloso sul mercato e che viene ritirato. Quindi il consumatore deve essere tranquillo che quando c'è un'allerta il prodotto viene ritirato. Quali sono i prodotti? Sono soprattutto indumenti, pellame, giocattoli. Un più 4% che deve preoccuparci? Direi no, la reazione deve essere, vuol dire che ci sono più controlli e che quindi troviamo più casi di rischio nei prodotti, perché diciamo non è che le importazioni sono cambiate, ma soprattutto aumentano i controlli e noi chiediamo agli Stati membri di vigilare sempre sul mercato. E soprattutto la Cina, ma anche perché la Cina è un grande paese produttore di queste categorie che le ho detto, la Cina è in testa per come paesi dove ci possono essere prodotti pericolosi messi sul mercato. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Madia sulla riforma della pubblica amministrazione. Confronto coi sindacati? Non è detto. Sono allibita, replica la segretaria della funzione pubblica CGIL, intervenuta poco fa ad Effetto giorno. Stipendi dei manager, Moretti torna sulla polemica, se c'è un'alternativa migliore a me ben venga, fare l'amministratore delegato è una fatica non un gioco, e aggiunge, vediamo se Renzi saprà convincermi. In Ucraina assalta il ministro della difesa, la NATO si dice preoccupata per le truppe russe ammassate al confine. Intercettata una telefonata di Yulia Tymoshenko, sparerei a Putin, dice, ma lei è stata manipolata. È il momento della borsa. Borse in diretta. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno, ciao. Buongiorno. Allora, la giornata è finalmente positiva, più 1,16% sul FTSE MIB, più 1,10% sul FTSE All Share, positivo anche il resto d'Europa, va lievemente meglio il resto d'Europa. Francoforte guadagna l'1,61, Parigi l'1,47, Londra l'1,13%. A cosa dobbiamo questi rialzi? Sì, la borsa sta riprendendo quota, questo dopo il passaggio a vuoto di ieri, e nonostante un dato deludente sull'IFO tedesco, cioè la fiducia delle imprese, che è peggiorata a marzo ed è sotto le attese degli esperti. A Milano il listino è sostenuto dal buon andamento dei titoli del lusso, che sono ben comprati sulla scia di Luxottica, dopo l'accordo annunciato nella notte appunto fra Luxottica e Google per la creazione di occhiali di nuova generazione. Luxottica fa più 3,4%, va bene tutto il settore del lusso, Yux segna più 3,7%, Tod's il 2%, Salvatore Ferragamo guadagna un 1%, ricordiamo che questi titoli, con l'eccezione appunto di Luxottica, sono stati oggetto di vendite con perdite che si aggirano sul 20% da inizio anno. Isabella, mi sembra Popolari in sofferenza questa mattina, la Pop Milano cede il 2,68%, il Banco Popolare il 2,04%, l'Emilia Romagna lo 0,36%, sono tra l'altro tra i pochi titoli negativi perché ci sono solo Autogrill che cede lo 0,68%, Eterna lo 0,26%. Sì, il comparto delle Popolari ci sono un po' di realizzi, il settore aveva corso molto negli ultimi giorni, sulla BPM c'è anche la bocciatura da parte degli analisti di Kepler, il titolo così cede appunto come ricordavi il 2,7%, è proprio la flessione del comparto bancario che pesa sull'indice FTSE MIB, che infatti va meno bene delle altre borse europee. Euro che quota 1,38 e 0,9 contro dollaro, grazie anche per oggi a Isabella Tasso di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, partiamo da una notizia di cronaca per poi andare ad approfondire una notizia di cronaca delle scorse ore. Una donna di 65 anni è morta ieri a Nova Milanese, siamo in provincia di Monza, per un incidente provocato da un uomo che al momento è accusato di omicidio ed omissione di soccorso. Da una prima ricostruzione, l'auto dell'uomo contromano avrebbe colpito un'altra macchina scaraventandola su una terza in sosta. L'uomo è fuggito senza prestare soccorso, poi è stato arrestato ed è tra l'altro un pregiudicato per droga. Saluto il senatore Claudio Moscardelli del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a voi. Che è il primo firmatario di un disegno di legge che è stato presentato questa mattina proprio su questi temi. Il titolo è Norme in materia di omicidio e lesioni personali stradali. Ci spiega che cosa intendete introdurre nel nostro codice, senatore? Sì, una nuova figura di reato, quello dell'omicidio stradale, una figura che scatta in alcune ipotesi che sono previste dal disegno di legge, cioè quando ci si mette alla guida in stato di ebbrezza alcolica secondo i parametri delle lettere B e C del DPR del 92 e, oppure in caso di assunzione di sostanze stupefacenti, oppure quando si supera per oltre il doppio il limite di velocità previsto nel tratto di strada interessato dal sinistro, oppure nel caso di pirateria stradale, cioè che vi sia, diciamo, la fuga di chi ha cagionato la morte di una persona. In questi casi si prevede quindi una figura autonoma di reato con una sanzione, con una pena che va dai 6 ai 16 anni. Questo perché riteniamo che sia necessario introdurre questa figura di reato autonomo con una sanzione che possa essere da deterrente, efficace rispetto a comportamenti che sono estesi e non tollerabili per un paese civile. Moscardelli, ma è proprio sicuro che la deterrenza funzioni in questi casi? Sinceramente, penso, insomma, adesso io so che lei ha presentato il disegno di legge, quindi evidentemente lo riterrà. Ci sono molte perplessità su questo. Prego. Motivo perché è evidente che sapere come è accaduto fino adesso, che sostanzialmente, nonostante l'inasprimento della pena dell'omicidio colposo, come è stato sempre inquadrato e trattato l'omicidio stradale in queste particolari fattispecie, dove la giurisprudenza costante, cioè sostanzialmente quello che si applica in via ordinaria, è una pena intorno ai 2 anni, è evidente che non si ha nessun costo per l'autore del reato, che in questo caso è la soppressione di una vita. Allora, determinati comportamenti, è evidente che da sola la norma non può ottenere il pieno risultato, e quindi c'è un tema di prevenzione, c'è un tema di formazione, c'è un tema di sicurezza stradale, ma anche colpire in maniera chiara comportamenti che sono la uccisione di una persona, dove assumendosi la responsabilità di andare a determinate velocità o di assumere sostanze stupefacenti o guidare in stato di ebbrezza alcolica, questo ci mette in conto la possibilità di uccidere una persona. Che questo comportamento non riceva una sanzione adeguata è evidente che è una parte del problema, per cui ritengo che perché, sia giusto. Perché le dico, qualche tempo fa facemmo una trasmissione su questo tema, fu una trasmissione di dibattito nel quale intervenne anche una signora in diretta, fu un intervento molto commovente nel quale raccontò che suo marito rimase ucciso proprio perché investito sulle strisce pedonali da una persona. Questa persona non era né ubriaca né niente, ma stava semplicemente cercando il cellulare nella propria borsa. Allora capisce quant'è sottile il confine? Ma infatti l'omicidio stradale in questo caso è previsto in casi limitati, che sono casi particolarmente gravi in senso della responsabilità della persona, perché, ripeto, non in tutti i casi. Parliamo della figura dell'omicidio stradale quando si cagiona la morte di una persona, ripeto, sotto l'effetto, diciamo, dello stato di ebbrezza alcolica, peraltro con riferimento ai parametri da 0,8 in su come tasso alcolemico, con l'assunzione di sostanze stupefacenti, o quando si guida a una velocità che è oltre il doppio del limite di velocità consentito in quel tratto di strada, oppure quando si fugge. Quindi non per tutti i casi, certo, diciamo, di omicidio stradale, che verrebbero trattati invece come omicidio colposo con l'attuale normativa. In questo modo risponde anche all'ascoltatore che si chiama Max e ci scrive: a materia molto delicata, perché spesso soglie alcoliche e limiti di velocità sono irreali o irrealistici, no? Così si trasforma, dice, in potenziale carcerato qualsiasi comune onesto cittadino. Le soglie, dice, vanno stabilite attentamente e mi sembra in questo caso siano piuttosto elevate, tutto sommato. La ringrazio, grazie al senatore Claudio Moscardelli per essere stato con noi, buona giornata. Buongiorno. E saluto il conte Vanni Leopardi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, il cognome lo, insomma, dice quasi tutto, direi, è discendente di Giacomo Leopardi. E l'abbiamo voluta in onda perché c'è una vicenda che sta passando, se vogliamo, forse anche un po' sotto traccia sui giornali, e che riguarda l'ermo colle della poesia di Giacomo, sotto il quale si vorrebbe fare una country house. Innanzitutto ci spiega che cos'è questa country house, posto che lei lotta contro questa cosa e quindi non è quello che la vuole. Io lotto in generale contro qualsiasi progetto che deturpi in qualche maniera l'idea del colle. Guardi, questa sarebbe una possibilissima operazione se avessero tenuto conto di quella casa, perché questa casa dove vogliono fare l'agriturismo è una bella casa colonica antica che forse avrà visto anche Giacomo, non lo so, che verrà cambiata, perché l'accorpamento, in questa parola accorpamento, vuol dire mettere i volumi insieme, per cui la porcilaia, per cui il forno, per cui la capanna, daranno ospitalità e diventeranno tutto un insieme con l'alberghetto. È questo che io critico. Io non critico che facciano, creino un'attività interessante sul Colle dell'Infinito, ma mi meraviglia che gli stessi che fanno la casa non tengano in considerazione quanto la gente preferisca andare a abitare in una casa che mantenga le caratteristiche dell'antico. Senta, c'è una vicenda giudiziaria in corso su tutto questo, una vicenda giudiziaria amministrativa, perché TAR e Consiglio di Stato in questo paese sono sempre dappertutto, e nella fattispecie il Consiglio di Stato ha deciso che per il momento con i lavori si può procedere, no, ci sbagliamo? Non ha detto proprio questo, ha raccomandato alla sovrintendenza di meglio vagliare la situazione, per cui non è detto che poi non ci siano dei cambiamenti, io spero. Ma vede, non so, non penso che riusciranno in così breve tempo a difendersi. Secondo me dovremmo convincere noi recanatesi, l'imprenditore, a fare un progetto meno pesante, tutto lì la questione. Invece così c'è uno stravolgimento di questa parte così sensibile del Colle. Perché quindi c'è questa casa colonica dell'Ottocento, e partendo dalla volumetria di questa, con, come ci diceva, aggiunta la porcilaia, il forno, eccetera, eccetera, di fatto costruire nuova volumetria buttando giù tutto questo. Esatto, addirittura poi spostandola di parecchi metri dalla sua sede originale. E l'ipotesi, ho letto bene, c'è anche l'ipotesi di un parcheggio sotterraneo? Sì, c'è proprio anche un'ipotesi di parcheggio sotterraneo. Lei capisce che insomma in uno spazio così ristretto e delicato, insomma, o rivedono l'operazione e la fanno bene, allora nessuno sopporrà, o così è un autogol per tutta la comunità. Ma il terreno di proprietà di chi è? Di queste persone che vogliono? Di queste persone che hanno deciso di fare un agriturismo lì. Tra l'altro ci sarebbe benissimo un agriturismo lì, rispettando la casa com'è. Sarebbe anche molto più, forse ci sarebbero meno camere, ma sarebbe più bello. Questo è il mio parere. Nessuno si oppone al fatto che qualcuno voglia creare nuove iniziative a Recanati, anzi ne abbiamo molto bisogno. Lo stesso Colle potrebbe essere valorizzato in qualche maniera, con colture importanti, fare il vino dell'infinito, che ne so io, con un po' di fantasia riusciremo. Grande idea di marketing già questa, secondo me. Ma sì, perché è un Colle che scopre tutte le montagne dell'Appennino, è suggestivissimo, è molto bello. E diciamo, gli italiani lo hanno carissimo, è uno dei punti della memoria collettiva degli italiani, e quindi andrebbe rispettato sicuramente. Che tempi ci sono? Cioè, entro quando la sovrintendenza deve rispondere? Ma io credo che i tempi, ahimè, che i giochi siano fatti, però i tempi per ricorrere esistono. Credo che da qui a un'eventuale proprio partenza dei lavori ci sia qualche mese, quindi se ci fosse un maggior interesse, come ha detto lei all'inizio, perché un po' sia dei recanatesi, mi ricordo quando l'Ene voleva far passare degli elettrodotti sul Colle dell'Infinito, ci fu una tale presa di posizione di tutta Italia e tutta Europa, della coscienza nazionale, che non passarono. E lei auspica una cosa di questo genere, insomma, una presa di coscienza di questo genere? No, perché in quelle battaglie lì poi si fanno male tutti. L'altra volta con l'Enel è vero che non sono passati sul Colle dell'Infinito, ma sono passati malamente da altre parti altrettanto successive. Sì. E quei piloni, quei tralicci sono ancora senza cavi. Senza cavi. Allora io la ringrazio, purtroppo devo chiudere, perché devo dare la linea al traffico e poi abbiamo America 24. Intanto la ringrazio, e promesso che teniamo sott'occhio la cosa. Buona giornata. Ci conto. Traffico. Strade in diretta. Due 2 chilometri di coda per lavori in Emilia sull'autosole in direzione di Milano tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia. La situazione sul resto della rete resta abbastanza tranquillo. Rallentamenti causa lavori per la linea BB1 della metropolitana di Roma. Scende il livello dell'inquinamento a Milano. Da domani possono tornare a circolare i veicoli diesel Euro 3 senza filtro antiparticolato. Noi torniamo tra mezz'ora. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero e di America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 dall'AIA. Mario Platero, sono all'AIA al seguito del presidente Obama. Devo dire, un viaggio molto interessante dal punto di vista politico, dal punto di vista storico, perché da ieri la Russia è formalmente al bando. Il G8 di Sochi è stato cancellato, è saltato, e al suo posto si terrà un altro G7 a Bruxelles il prossimo giugno. Queste comunicazioni sono state date ieri nel G7, nella dichiarazione dell'AIA, dopo una riunione straordinaria del gruppo, una riunione senza precedenti e dunque storica per respiro, portata delle dichiarazioni e per il tono deciso usato nei confronti di Mosca. Ma veniamo alla giornata, perché qui all'AIA è in corso un vertice nucleare importante che ha raccolto 58 capi di Stato e di Governo, che doveva avere un ruolo centrale ovviamente in questo viaggio del presidente americano in Europa e che in realtà è passato in secondo piano. Bene, si chiuderà nel pomeriggio alle 4, avremo una conferenza stampa finale di Barack Obama, di cui poi vi riferirò domani, ma proprio il presidente americano continua a cercare sponde su cui far rimbalzare il suo messaggio duro contro la Russia, perché ormai è chiaro, ve l'avevo già anticipato ieri, che questo viaggio si occupa soprattutto del problema dell'Ucraina, del problema della Russia. E poco fa c'è stato qui all'AIA un incontro delicato, perché Barack Obama ha visto il presidente del Kazakistan Nazarbayev. L'incontro è importante per la vicinanza politica di Astana, la capitale del Kazakistan, a Mosca, dal punto di vista non solo politico ma anche economico, perché Nazarbayev è un personaggio al potere dal 1990, ancora una mentalità molto sovietica. Pochi giorni fa, dopo una conversazione con Putin, aveva detto di comprendere benissimo le azioni della Russia per proteggere le sue minoranze. Ormai credo di poterlo dire, ma tempo fa, il giorno stesso in cui la Russia entrò in Crimea, riferì che qualcuno di autorevole mi aveva detto all'ONU che la Crimea non sarebbe più tornata all'Ucraina. La fonte, devo dire, era proprio una fonte kazaka, e mi colpì la certezza del tono, perché il mio interlocutore non mi parlava ipotizzando, ma usava il tono di qualcuno che sapeva esattamente quel che stava dicendo. Ecco, questo è Nazarbayev, un personaggio colorito, lo sentite, canta in un incontro politico, un personaggio un po' alla Yeltsin, imprevedibile in fondo, eppure Obama nel suo incontro ha voluto ribadirgli chiaramente che questa volta gli Stati Uniti non fanno marcia indietro. Il troppo è troppo. L'America di Obama è stata un'America molto aperta al dialogo, ha cercato sempre il compromesso piuttosto che la linea dura, ma se poi tendere la mano porta al fatto che un paese annette una regione di un altro paese, allora a quel punto non si può più tenere la linea morbida. Dunque Obama ha spiegato a Nazarbayev lo spirito del G7, un G7 che ha indicato ieri 4 percorsi per contenere l'aggressività russa contro l'Ucraina e più in generale nel teatro europeo, perché quel che preoccupa è che la Russia non si fermi alla Crimea. Sappiamo che sono truppe ai confini con l'Ucraina, molti temono che possa esserci anche un'invasione in alcune zone dell'Ucraina orientale con forti minoranze russe. E 3 di questi interventi del G7 sono punitivi. Il primo è quello dell'isolamento, e questo, diciamolo, a Putin non piace. Putin amava far parte del G8, essere incluso in questo club, come dire, potremmo dire il salotto buono, perché un club che riflette il rispetto della legalità, il tentativo di applicare tutte quelle che sono le regole delle Nazioni Unite e così via, così via. Ci sono poi le sanzioni, c'è una minaccia di nuove sanzioni dure, dolorose per la Russia nel settore energetico, in quello delle costruzioni ingegneristiche e in quello delle banche e della finanza più in generale. Ormai l'economia russa è completamente integrata in quella mondiale e dunque, se si andrà avanti, questo davvero potrebbe creare i problemi a Russia, potrebbe creare i problemi anche all'Occidente ovviamente. Dunque l'America si è aperta e ha cercato di presentare dei progetti energetici alternativi per poter aiutare l'Europa nel caso la Russia dovesse chiudere i rubinetti. Ma è chiaro che uno sviluppo economico negativo non interessa a nessuno, soprattutto non interessa alla Russia. Infine, il terzo percorso è quello degli aiuti all'Ucraina. Circa 30 miliardi di dollari, 11 miliardi di euro in questo caso arriveranno dall'Europa, 10 miliardi di dollari dal Fondo Monetario, il resto dagli Stati Uniti. Il Congresso sta per approvare un pacchetto importante. C'è anche un messaggio di apertura: se la Russia accetterà di calare il livello della tensione, di escalation è il termine usato nel documento, il dialogo tornerà possibile. La porta del G8 non è chiusa per sempre, la Russia non è stata espulsa, come qualcuno aveva anticipato ieri, ma sospesa ad oltranza. La differenza non è da poco, perché si lascia aperto uno spiraglio. We understand how strongly the Israeli Prime Minister feels about the Iranian issue and that the Israeli people feel about the Iranian issue. Ecco, qui sentite Ben Rhodes, il numero due del Consiglio della Sicurezza Nazionale. Lo abbiamo incontrato prima del G7 e ci aveva dato un quadro molto fedele di quello che sarebbe poi successo. Una delle cose più interessanti di questi viaggi è proprio quello di poter avere un contatto diretto con questi personaggi che fanno il policy making americano, e proprio Ben Rhodes, devo dire, ha fatto una dichiarazione che di nuovo dà un contesto storico a quello che sta capitando. Perché l'America, che esprime le sue posizioni dopo un dibattito collettivo all'interno della Casa Bianca, non è che Obama si metta lì e dica bene, voglio che succeda questo e andiamo avanti, mentre invece proprio fonti dell'amministrazione mi hanno detto che in Russia succede esattamente così, cioè è Putin che decide, è solo lui che stabilisce la linea. Ecco, e dal punto di vista dell'America, di cui Ben Rhodes è portavoce, il messaggio è questo: non siamo più, ha detto Ben Rhodes, ai tempi della guerra fredda, anche se continuiamo a parlarne, sembra che si stiano facendo dei passi indietro, e ci ha spiegato perché. Ha detto che la Russia soffrirà per l'isolamento nel quale si è messa da sola e, dice Rhodes, dico che non siamo più nei tempi della guerra fredda perché la Russia si è messa in un vicolo cieco. Non c'è più il patto di Varsavia, non ci sono più i paesi satelliti su cui esercitare pressioni. La Russia agisce da sola contro la comunità mondiale. Nel medio termine non potrà che soffrirne le conseguenze. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee di cui potrei parlarvi. Li troverete su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Devo dire, la tensione sale invece di diminuire. Dunque, auspichiamo la pace, torniamo alle canzoni pacifiste. John Baez, We Shall Overcome. Ce la faremo. We shall è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24. E appuntamento a domani anche per noi con Effetto Giorno. Intanto i ringraziamenti: Filippo Aureggi in regia, Anita Panizza in assistenza e in redazione, tutta la redazione di Radio 24. Come sempre, una buona giornata da Simone Spezia. Ci risentiamo tra un attimo col GR.